Buongiorno, sono quello che diceva da Ciuchina e che voleva mandare via Sarri. Ora, purché tutto torna normale, alla normalità del calcio, mi va bene anche Sarri, va bene tutto. Dobbiamo convocare la banda. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Nella mia testa sono già concentrato a quello che deve essere l'anno prossimo, perché abbiamo, come mi è capitato di ricordare di recente, un appuntamento con la storia. Nessuna Juventus ha mai vinto 3 scudetti di fila se non quella del quinquennio, e quindi, visto che davanti a me c'ho il mister, c'ho lo staff tecnico, c'ho la squadra tutta, io vi dico, io sono concentrato all'anno prossimo, perché dall'anno prossimo si iscrivono i nuovi palcoscenici e noi sappiamo che nel nostro destino c'è l'ambizione di vincere. Non ci vogliamo nascondere, siamo estremamente orgogliosi di quello che abbiamo fatto, e davanti al podio ci sono le 5 coppe degli scudetti che abbiamo conquistato in questi 5 anni e che ci hanno permesso di scrivere una pagina importante della storia ultracentenaria della Juventus. C'è innanzitutto in tutti noi un sentimento di orgoglio per quello che è stato il percorso di questi 7 anni, la consapevolezza di aver raggiunto veramente una dimensione europea totale. Io non posso che abbracciare tutti i ragazzi così come ho fatto in campo, e la consapevolezza è che l'anno prossimo dovremo andare in campo ancora più cattivi degli ultimi anni. Sapere che il giocatore più forte al mondo sceglie la Juventus, sapere che la società, che io reputo una delle più forti al mondo, finalmente riesce ad arrivare al giocatore più forte del mondo, è un motivo di grandissimo orgoglio. Io ho sempre sostenuto e continuerò a sostenere che la differenza in un gioco di squadra, in un'azienda, la fa la squadra, ma avere i migliori professionisti in ogni ruolo sicuramente aiuta ad ottenere i risultati che ci si è prefissati. Buon pomeriggio a tutti con Edoardo Lavezzari e Miriam Lucchetti, oggi in redazione, Filippo Reggi in regia. E, insomma, abbiamo sentito alcuni momenti sonori del festeggiato del giorno, e c'è cioè Andrea Agnelli che compie 10 anni, oltre 8 scudetti e quel che resta di questo, in sella alla Juventus. Buongiorno per Luigi Pardo. Buongiorno, buongiorno. Ciao. Avrei deciso di approfittare delle tue qualità di twitterista per chiederti un pensiero al giorno. Un radio tweet per i nostri ascoltatori, argomento a scelta. Allora, il mio radio tweet di oggi parte dall'anniversario, visto che siamo anniversari. Ho visto anche il tweet di Mancini, quello della Sampdoria, dello scudetto della Samp del 19 maggio 1991, perché è stato, diciamo, uno degli scudetti sicuramente più alternativi nella storia del calcio italiano, ma nel festeggiare la Samp 29 anni dopo festeggiamo tutte le squadre, perché questo è un periodo maggio. Bellissimo. Dove, pandemia esclusa, di solito si festeggia, di solito c'è quell'adrenalina, quella botta di adrenalina finale, che quest'anno invece non abbiamo avuto, e chissà se ce l'avremo e chissà come sarà. Ecco, quindi, insomma, nel ricordare quel giorno comunque storico per i tifosi blucerchiati, ricordiamo la Lazio ha festeggiato l'altro giorno, il 14 maggio del 2000, insomma, qui ognuno ha le sue celebrazioni, sì. L'Inter c'è tutta la saga del triplete, però ecco, questo è quello che noi consideriamo di solito maggio, di solito è questa roba qua, ecco. Vedi che avevo ragione nel fidarmi delle tue qualità di twitterista. Bravo, hai fatto bene. 29 della poi ne parliamo ancora. Buongiorno Giancarlo Marocchi. Ciao, buongiorno a tutti, come state? Molto bene, tu? Sì. Bene, in questo maggio di attesa sono già pronto ai blocchi di ripartenza, perché non vedo l'ora. Non solo tu, mio caro. Poi resta da decidere se sei pronto alla ripartenza del calcio o della Formula 1, che parte il 5 di luglio. A proposito, Ferrari che dal tifoso dell'Eintracht passa a un tifoso del Real Madrid, da Vettel a Sainz. Come la vedi? Beh, si potrebbe migliorare, cioè se si guarda le squadre di calcio, sicuramente sicuramente ringiovanisce, sicuramente si cambia, ma dal momento che uno si mette nell'abitacolo della Ferrari diventa un pilota fortissimo a prescindere, eh? Cioè, questo è il tifoso che parla, funziona così in casa Ferrari. Chiunque corra per la Ferrari è l'idolo totale. Senti, sì. Mai come quest'anno siamo attenti alle ricorrenze. Ha fatto benissimo Pierluigi a citare il 29 della Sampdoria. Sono venerdì, saranno i 10 triplete, ma anche i 24 della Champions di Roma per la Juventus, se non ricordo male. Agnelli, dallo scetticismo iniziale, te lo ricordi Giancarlo, a una nuova era. Credo che il grande risultato sia quello di aver portato appunto la Juventus in una nuova dimensione, molto europea, molto mondiale, molto manageriale. Un risultato importante almeno quanto quegli 8 scudetti e un po' conquistati. Beh, devo dire che Andrea Agnelli ha fatto qualcosa di eccezionale, insomma, quindi ha fatto tesoro degli insegnamenti che ha avuto in giro per casa, insomma, perché Umberto Agnelli era il gran capo di quella Champions che hai ricordato, e quindi prima in casa, poi io immagino il grande manager che aveva in quegli anni la Juventus, ovvero Giraudo, ha messo tutto insieme, ci ha messo il suo calore di tifoso, perché ad ogni esultanza di qualsiasi gol in qualsiasi competizione, cioè, se ne ha la percezione non tanto velata ma evidente che è anche tifoso, messo insieme quello, grande rispetto dei ruoli, è saltato fuori tutta quella serie di successi, sì. Eccezionale. Per niente casuale. Tra l'altro, Pierluigi, ti ricordi quando è venuto a trovarci qui, ci diceva che lui, insomma, è cresciuto dentro alla Juventus perché ci andava con suo papà quando era sì. Ragazzino. Tu te lo ricordi il piccolo Andrea? Giancarlo? Sì, me lo ricordo che arrivava in quel momento, si percepiva proprio il suo tipo e il suo piacere di vederci. Ecco, quello che ha detto di Cristiano Ronaldo, i suoi occhi guardandoci, lo pensava anche di noi, insomma, con le varie categorie. Comunque, quando vedeva i giocatori della Juve, quindi vedeva noi, era sempre entusiasta al fianco del padre, poi c'era anche al fianco dello zio, prima ancora più piccolo, insomma, è sempre gironzolato, sì, per casa Juve. Adesso che la guida, lo sta facendo con la stessa passione, però la passione non basta, perché altrimenti c'erebbero quasi tutti lo scudetto. Lui ci ha messo tanto del manager, perché sì, è proprio questo, secondo me, questo mix fra passione che è un elemento fondamentale, perché nello sport la motivazione fa tanto, e quindi qualche volta devi anche fare il passo, non dico più lungo della gamba, ma devi anche prenderti dei rischi, ovviamente calcolati, e l'acquisto di Cristiano Ronaldo dal punto di vista economico comunque ha rappresentato un'opportunità ma anche un rischio, perché insomma un investimento così è per sua stessa definizione un rischio, è un investimento calcolato, e il mix è assolutamente virtuoso, direi che è perfetto, insomma, sinceramente questi anni di gestione sono stati clamorosamente positivi, la Juve è cresciuta a livello di fatturati in una maniera esponenziale, poi Beninazzo ci darà tutte le cifre, ma è cresciuta come forse nessun'altra squadra italiana negli ultimi 10 anni, e ha vinto tantissimo in Italia, in Europa ci è andata comunque vicino, che non è la stessa cosa, ovviamente non è un dettaglio, però comunque il cammino europeo è stato importantissimo. Poi chiaramente quella finale non va giù, no? Quelle finali lì non vanno giù perché cominciano a essere tante. Però secondo me la chiave è proprio questa, è questo mix fra tradizione familiare, che significa passione, e quindi il fatto di fare delle volte anche delle cose vagamente irrazionali, perché il calcio ha bisogno anche di cose vagamente irrazionali, però all'interno di una cultura assolutamente manageriale, certo, ma e in qualche caso anche un po', non voglio dire cinica, cioè non è in senso negativo, ma insomma il grande manager deve fare delle scelte razionali, deve fare delle scelte logiche. Se fa soltanto il tifoso della squadra, qualche volta rischia di sbagliare per troppo amore. Ecco, mi sembra che Agnelli da questo punto di vista abbia proprio questa giusta, sì, questo sì, giusto balance, sì, tra... Sì. Il tifoso che però ragiona sempre anche nei momenti difficili. Tante volte i presidenti sbagliano per gratitudine, il più dolce degli errori, no? Magari rinnovi dei contratti e dei giocatori che ti hanno fatto godere, che magari sai che non ti potranno dare la stessa cosa, ma ti senti grato in qualche modo a loro, quello è un errore, no? È un errore dolcissimo, romantico, che è stato riprovato ad esempio a Moratti, no? In diverse occasioni, ma abbiamo modo di dire comunque che Agnelli si io non dimentico lo scetticismo iniziale con cui venne accolto, è cresciuto insieme alla Juventus anche come manager, non solo come ragazzino poi diventato uomo. Intanto notizia di oggi che in Germania dopo il calcio parte anche il basket all'inizio di giugno. Noi invece oggi festeggiamo l'arrivo di Cristiano Ronaldo alla Continassa, evento che, insomma, questo è l'evento del giorno, e i luoghi evento sono i nostri ritiri, una specie di terra promessa aspettando che ricominci qualcosa, Gianca? Sì, ce la dobbiamo fare, però ogni giorno vedo che facciamo un piccolo passo in avanti, perché poi come paese stiamo facendo dei passi in avanti, possiamo anche andarci a tagliare i capelli da ieri, quindi insomma sono piccoli grandi passi anche grazie al fatto che stanno migliorando le cose, ecco, e quindi io me lo sono segnato in agenda, dai, giugno il calcio, luglio la Formula 1 e agosto il moto mondiale, dai. Anche la Champions. Facciamo sto tripletto. Anche la Champions. Anche la Champions ad agosto, poi se nel frattempo gli amici americani, inglesi vanno avanti con i vaccini, riportiamo la gente allo stadio, perché onestamente, sì, insomma, al di là del fatto che noi l'abbiamo detto mille volte, sarebbe opportuno ripartire anche per motivi economici, proprio di tenuta nel sistema, però insomma la sensazione che ci ha dato la Bundesliga anche ieri sera, anche in Werder Bayer Leverkusen, per me è sempre la stessa, cioè sprazzi di gioia in campo, perché il calcio comunque è bellissimo ed è sempre meglio se c'è una partita, secondo me, piuttosto che se non c'è. Però il pubblico, ecco, ci stiamo rendendo conto secondo me tanto di questo. Io sai che sono per ripartire, mi auguro che si riparta, però mi auguro anche che questa sia un'occasione per questi mesi di purgatorio che vivremo, per rimettere il tifoso al centro del mondo del calcio. Tanto perché hai visto che i geni dei tedeschi, no? Quelli del Borussia Mönchengladbach, che hanno messo in vendita i cartonati dei loro tifosi, no? 19 euro. Tipo Zoro, tipo Zoro. Sì, tipo, ma cioè, tu paghi 19 euro e ti mettono la foto sul seggiolino. L'ha fatto anche un collega italiano tifosissimo del Borussia Dortmund, Mönchengladbach, leggevo prima su Repubblica, no? L'hanno intervistato, ha pagato 19 euro, mettono la sua foto sul seggiolino e ne hanno venduti una roba tipo 15.000. Hai capito che è generata? No, ma volevo chiedere a Giancarlo due cose. La prima, ieri si diceva, così in passant, che insomma, qualcuno dice, beh, cominciare gli allenamenti di gruppo tra una settimana, poi giocare a metà giugno, è troppo poco, si rischiano infortuni, eccetera. Io continuo a pensare che il rischio di farsi male, che i rischi per gli sportivi professionisti crescano esponenzialmente ogni giorno in più che si sta fermi. Questo è un punto. E poi l'altro punto, appunto, quello non dei cartonati, ma dei tifosi veri. Si dice anche Cappello, il calcio è uno sport che si nutre del tifo più di altri. Ecco, questi due aspetti come li vedi, li valuti? No, secondo me c'è, da qui al 13 giugno c'è abbondanza di tempo, perché poi non si deve fare un campionato intero, se ne deve fare un terzo, quindi va bene, c'è proprio la voglia, anzi allungare il tempo degli allenamenti è uno stress ulteriore, cioè qui qualche partita che sono partite diverse, è vero, senza pubblico è tutta una roba tecnico-tattica e fisica. E quella ci può piacere per un po', perché talmente tanto il calcio che ci manca, e quindi va bene anche quello, ma il calcio completo è con la gente intorno, con i rumori della gente intorno. E guarda, questo potrebbe diventare un'occasione per rimettere il tifoso al centro, che può sembrare una frase un po' astratta, ma non lo è per niente, perché significa disponibilità da parte della società, disponibilità al dialogo, disponibilità da parte degli stessi protagonisti, perché tutti noi senza tifosi non siamo niente, noi non siamo niente in assoluto, noi giornalisti, ma figuriamoci, però insomma tutto questo mondo senza tifosi non esiste, e ce ne accorgiamo, no? Ce ne accorgiamo, perché appunto si può andare avanti due mesi, tre mesi senza il pubblico soddisfatti, poi dopo è chiaro che si deve tornare. Io non vedo l'ora che arrivi quel giorno, quindi secondo me potrebbe diventare un'occasione per ripartire, se ci saranno le condizioni, perché è necessario farlo per motivi prettamente economici e poi anche proprio di piacere vedere le partite di calcio. Però approfittiamo di questa occasione, costruiamo una disponibilità diversa rispetto ai tifosi, dialoghiamo con i tifosi, e mi riferisco a tutti, quelli delle tribune e quelli delle curve, perché tante volte i tifosi sono veramente l'ultima ruota del carro, costretti a trasferte difficili, stati che sono fatiscenti, pagare biglietti che sono molto salati, quindi da questo punto di vista, se il mondo del calcio capisce che il tifoso non è un consumatore soltanto, è anche un consumatore, per carità, perché poi quando spende i soldi contribuisce ai bilanci, ma è un consumatore romantico, quindi è un consumatore che deve essere trattato come un innamorato, ecco, con le gentilezze che si devono agli innamorati, secondo me può essere un'occasione importante anche per ripartire. Cartonato eventualmente. Anche cartonato, vabbè, sì, meglio dal vivo, però meglio dal vivo. Poi ma cazzo di meglio cartonato. Sarebbe anche divertente capire, però lo so che è difficile, se ci potessero essere degli strumenti per far stare un po' di tifosi separati, distanti, perché in linea teorica si potrebbe fare, no? In linea teorica tu potresti aprire uno stadio a 10.000 persone con delle indicazioni, però vedi Pier, che in questo momento qui è talmente difficile portarci i giocatori dentro ai campi che ragazzi ne passa. Che impressione ti ha fatto invece dal punto di vista tecnico la Bundesliga, Giancarlo? Allora, che alcune squadre sono andate subito forte, altre un po' meno. C'è stato proprio è una giornata in cui ci si abitua, ecco, c'è chi si è abituato in fretta, cioè, mi è sembrato proprio evidente anche all'interno delle stesse squadre alcuni giocatori con un po' meno slancio del solito, perché lo slancio è una delle caratteristiche dei giocatori della Bundesliga, tutti indietro, tutti avanti, abbastanza in scioltezza, e quindi era proprio una giornata di ripresa, ecco, o almeno io l'ho percepito, sì. Ecco, non so se l'ho proprio voluta vedere così, ma io ho avuto anche questa percezione. No, c'è anche molta attenzione da quel punto di vista, però non sono state partite particolarmente plastificate, come dice qualcuno, particolarmente distanti dalla realtà o astratte, no? No, ecco, cioè, poi dopo io mi sono concentrato a vedere come si muovevano, quanti ce ne stavano dietro, avanti, 3-4, ecco, poi magari io la guardo anche tecnicamente, ecco, sì. E chi si sofferma su altre cose, però bene che siano partiti così, andremo anche tutti gli altri campionati, vabbè, a parte che ha deciso di interrompersi, seguiremo l'esempio, dai. Sì, è quello che dobbiamo salvare insalvabile. Dobbiamo salvare insalvabile. E soprattutto è importante il coordinamento internazionale, perché esattamente come qualsiasi altro settore dell'economia, se dei paesi vanno avanti e dei paesi si fermano, è chiaro che c'è una differenza, no? Una differenza, c'è un impatto a favore di chi va avanti, e invece che penalizza chi rimane fermo. Quindi la salute è il tema fondamentale, quindi chiaro. Poi la parola definitiva dovrà arrivare dalla politica, sulle basi, e dobbiamo essere anche un pizzico fortunati sicuramente da questo punto di vista. Poi anche per gli atleti top e le squadre top ci devono dire cosa succede, perché se a settembre si vuol fare una partitella a calcetto con gli amici o si vuol portare i bambini a far basket, pallavolo o altro, bisogna vedere come va con quelli super controllati, perché settembre è qui che arriva, quindi serve anche per quello il campionato di calcio. Giancarlo, però l'importante è che non si arrivi al paradosso di vedere prima le partitelle tra amici e poi per altri motivi i professionisti. No, perché è un rischio reale, perché se riaprono i playground quest'estate, noi andiamo al playground ma i calciatori non giocano, almeno in Italia. Senti, a proposito calciatori e quelli che abbiamo visto, ma quanto è forte Haaland? Che non te l'aspetti ogni volta, perché appunto sembra così un po' macchinoso, perché c'è poco da fare, stare anche nella stazza eccetera, ma in fondo anche lo è, ma come poi lo era il primo Bobo Vieri, sapere essere al momento giusto con l'impatto della palla anche quella nel momento giusto, ecco che alla fine non ti accorgi che forse è anche un po' lento, sicuramente va in progressione, eccetera, ma questo fa gol, un po' è la sorpresa, quindi ci devono prendere anche un po' le misure. Però che sembra facile, ma non ci riescono. Bravo, esatto. No, ma non è male il paragone col tuo amico Bobo, Pierluigi. Un po' lo ricordo, magari non è bellissimo da vedere, magari è un po' sgraziato, magari è un po' lento, magari non... Ma è molto la stazza, secondo me, eh? È molto la stazza che rende questo giocatore appunto ogni volta una sorpresa, ogni volta stupisce un po' e al tempo stesso lo rende così importante anche in prospettiva, perché quando tu riesci ad avere quel livello di fisicità, proprio come Bobo che salutiamo, quando riesci ad avere quel livello di fisicità unito a comunque una qualità tecnica e a delle doti realizzative di quel tipo, poi hai un grande giocatore, perché il calcio moderno è diventato sicuramente dal punto di vista fisico un calcio più per gente grossa, per gente forte fisicamente, quindi quello è sicuramente un vantaggio. Non sempre hai quel livello di agilità con quel tipo di stazza, però insomma sono le anomalie. Ibrahimovic ha quanto ha di piede? 48, 40, sì, eppure no, una volta si diceva che i piedi perfetti fossero quelli piccoli, tipo Maradona, tipo Palanca, eccetera, e probabilmente forse lo erano pure in assoluto, però poi quando riesci a avere quel tipo di stazza unito a quel tipo di qualità tecnica, è tornato di moda il centravantone comunque, girala come vuoi, da Lukaku ad Haaland. È chiaro che Vieri non è mai passato di moda, Ibrahimovic, può essere anche una lettura tattica, Giancarlo. Sì, è vero, quello serve, perché altrimenti se lì davanti non hai questa fisicità è tutta roba di troppo altissimo livello dal punto di vista qualitativo, perché o hai Totti nella Roma o Messi nel Barcellona, sì, però questi ce n'è un po' meno di Haaland, quindi lì davanti un po' di fisico ci vuole, c'è poco da fare. Senti, un'ultima cosa, l'Inter sta per festeggiare le triplete, la Juve, come ha detto, altra ricorrenza, fa 41 anni Pirlo, scudetto a Sampdoria, tutte queste cose, però intanto si continua a inseguire la Juve, che c'è chi raccoglie anche qualche delusione di mercato. Leggevo che Mertens, dopo tante promesse all'Inter, sta per rifirmare con il Napoli, tutti vogliono Tonali ed è fin troppo facile dire che è una buona idea. All'Inter cosa servirebbe, Giancarlo? Io intanto direi continuare a giocare, l'unica cosa che sarebbe stato indispensabile per capirlo meglio, cosa serve, si va nella direzione di togliere uno dei più bravi, ovvero Lautaro. Delle volte succede che ne prendi un paio e la migliore, la squadra, non è detto, perché la coppia lì davanti funzionava, poi per il gioco di Conte, due punte così vicine, che si intendono così bene, si fanno i movimenti, un incontro, uno ad allungare, triangolano tra loro, non è così semplice trovarle, e quindi l'Inter, comunque ci fidiamo della dirigenza che ha scelto Conte, e quindi... intorno ad inseguire o intorno alla Juve, insieme alla Lazio, anche l'anno prossimo ci metteremo l'Inter, e poi aspettiamo le altre, perché il Napoli si è preso la pausa quest'anno, concediamo solo un anno. Sì, più o meno. Il tuo Bologna? Beh, lì è un trionfo, cioè Mihajlovic sì, è un trionfo, perché ha fatto un anno e mezzo di cose, al di là di quello che è successo lui personalmente, che quindi ha enfatizzato ancora di più tutto, ma fermandoci al piano tecnico, risultati, eccetera, squadra bella. Noi diciamo che è bella l'Atalanta non è solo bella, ma è stupenda, è bellissima. Il Bologna è proprio bello, perché tu lo vedi giocare, quindi se anche perde dice peccato ha perso, però è stata una bella partita. Contro chiunque giochi. Per i tifosi, per noi, che noi tifosi del Bologna, mettiamola così, è proprio quello che vogliamo, insomma, vedere una bella squadra. Bravo, e tra l'altro devo dire che è stata una rivoluzione, perché i primi mesi dell'anno scorso vedi com'è strano il calcio, no? E quello che sta facendo di fantastico Inzaghi a Benevento, quella squadra lì sembrava all'inizio della stagione scorsa veramente senza anima, senza qualità, e poi Pippo a Benevento è risorto, sta facendo cose fantastiche al di sopra di qualsiasi previsione, e Sinisa ha dato una scossa. Delle volte, insomma, è anche, credo, questione di clima, no? Questione di ambiente, questione di feeling che si trova. Sì, ma guarda anche il Verona, altra squadra pazzesca di questa stagione. Grazie Giancarlo, a presto. A voi, a prestissimo. Ciao. Ci ritroviamo magari quando saremo già ripartiti, non solo con il calcio, ma anche con la Formula 1, con Giancarlo Marocchi. Volevo chiudere il pensiero con te sull'Inter, Pier. Inter che incassa questo niente di Mertens, che si sta sbattendo di qua e di là sul mercato, che non mi sembra stia facendo grandi barricate per tenere Lautaro. Non so se hai anche tu questa impressione. Beh, insomma, le barricate per Lautaro, in realtà, credo che le barricate non ci possano essere per nessuno nel calcio moderno. Sappiamo che pure Messi potrebbe partire, quindi figurati. Lautaro è un prospetto enorme, e se dovesse partire l'Inter deve ridere, come si dice, no? Cioè deve avere proprio una soddisfazione economica clamorosa. Per il resto penso che l'idea sia tenerlo. Su Mertens io credo che sia una bella cosa, perché Mertens, insomma, si è capito fra le righe, è uno dei più napoletani fra i giocatori del Napoli che non sono nati a Napoli, passami questa espressione, è veramente integrato da anni con la città, vive in un posto che è uno dei più belli, secondo me, del mondo, a Palazzo Donnanna, con tutta la vita, insomma, io credo che sia una storia veramente di amore. Io sai come la penso su città come Napoli, che per giocare a Napoli devi avere un'adesione, non ti viene richiesto non soltanto di essere bravo in campo, ma anche inevitabilmente di amare un po' la città, ed è abbastanza facile che uno possa avere questo tipo di feeling. Mertens ce l'ha avuto, è diventato un tutt'uno con la città, e quindi è una cosa che mi piace. Non ha mai avuto mezzo screzio con Napoli. Ma sì, all'Inter è chiaro che un giocatore potrebbe essere utile, come a tantissimi altri club potrebbe essere utile, ma se rimane come pare altri due anni, insomma, è una cosa di grande buonsenso, che lo può portare veramente a scrivere pagine molto importanti, e credo sia soprattutto una scelta di vita. Certo. No, ma rispettabilissimo, sono contento anche io che sia rimasto lì, sembra il posto ideale. Noi siamo essenzialmente dei romantici, cioè poi perché il mercato può essere pure, però giocatori che si legano e che diventano bandiere, secondo me è sempre meglio, no? Cioè, è sempre bello fuori, quando sempre ti dicono che restano, sai, appunto. Ciao Pier, grazie. Ciao, ti abbraccio. Ci fermiamo per la borsa e poi apriamo il bar tour. Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Tutti convocati. Take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Caro Leo Turrini, sono qui, sono appena cormato, è tornato un po' di traffico. Finalmente, come andiamo? Molto bene, ma anche perché il direttore artistico oggi l'ha toccata piano, eh? Senti che pezzo. Non c'è? Sì che c'è. Ciao Marino. Buongiorno, ma chi è sto direttore artistico? Non so, non è chiarissimo. Forse si chiama Carlo, che non sono io, Però mi sembra sia abbastanza il nome del momento, poi usano nella lingua che vuoi, Carol, Charles, Carlos. Carletto, non dimentichiamo, se parlassimo di Ferrari, anche appunto, lui, eh. Appunto, c'è Carlitos, come dice Turrini, si apre l'era di Charles e Carlitos. Io credo che il direttore artistico occulto abbia messo questa musica non banale, devo dire, effettivamente. No. Perché effettivamente, che dire, c'eravamo tutti, Leo, Celentano, Bocelli, Petrucciani, il cardinale Biffi, quando Bob Dylan cantò questa canzone sublime davanti a Giovanni Paolo II circa 25 anni fa, esattamente nel 1997 a Bologna, poi a un certo punto interruppe l'esibizione e si avvicinò verso il Papa, che era vecchio, stanco, seppure corroborato da quella marea di giovani. Cosa farà Bob Dylan? Bob Dylan si tolse il cappello e si inchinò davanti al Papa, poi ridiscese e cantò Forever Young. Ecco, diciamo pure che è stato un discreto momento, un Papa con un futuro premio Nobel che en passant si chiamava Bob Dylan. Quante cose ci è toccato vedere, caro Leo, sì. Con quanta gioia. Leo? Ma sai, quando Marino è così ispirato, così aulico, io perdo persino il fiato perché sono già in contemplazione, ma vorrei riportarvi sulla terra perché Marino ci ha accompagnato alle soglie del paradiso. Voi avete detto giustamente questa Ferrari di Carletto, di Carlitos, che ci aspetta nel 2021, lasciatemi aggiungere, speriamo che allora la Ferrari smetta di fare le cose alla Carlona. Perché alla fine della fiera, poi in 10 anni, dal 2010 a questo funesto, bisesto 2020, noi ci siamo fumati prima Alonso e poi Vettel, no? E l'esito, dato che siamo in piena celebrazione del triplete interista, ma molto caro, qual è stato? 0 titoli. Abbiamo avuto dei driver con un curriculum straordinario e non abbiamo vinto manco a 3-7 qui a Maranello. Quindi evidentemente cerchiamo di far saltare il tavolo e ripartiremo con due ragazzi che al momento nemmeno hanno 10 podi in 2, ma che quantomeno appunto hanno questa freschezza, questa vitalità, sì, hanno anche questa insieme energia che io e Marino avevamo quando andavamo a cena con Nuvolari e Varo. Hanno anche insieme l'età di Kimi Raikkonen, Raikkonen, voi sapete bene cosa rappresenta per me. Raikkonen sarà in pista, io spero, anche nel 2021, e da solo avrà gli anni che più o meno hanno insieme Carletto e Carlitos. Quindi questo vi dà l'idea della fascinazione romantica del tutto. Intanto faccio notare a Marino che, lo dicevo prima a Giancarlo Marocchi, che la Ferrari comunque è passata da un tifoso dell'Eintracht a uno del Real Madrid, quantomeno calcisticamente ci ha guadagnato. Ho sentito anche il suo commento, ma ha detto bene il maestro Turrini, l'età media che fa testo, hanno tutta la vita davanti, questi due ragazzi, soprattutto uno, lasciatemelo dire. Qualcuno si chiederà perché abbiamo tirato in mezzo il Papa, poveretto, San Giovanni Paolo II, perché ieri avrebbe compiuto 100 certo. anni questo Papa che ha lasciato leggermente il segno. Allora, mescolando, come dicevi tu, i nomi Carol, Carlos, Carletto, Charlie e quant'altro, credo che il direttore artistico sia venuto a questa suggestione. Leo sicuramente ricorderà di quando il Papa andò a trovare Ferrari, che purtroppo quel giorno non poteva essere presente. Assolutamente, guarda, hai fatto benissimo Marino evocare questa circostanza, perché Giovanni Paolo II mise storicamente fine a quella che era una ferita che sulla pelle di Enzo Ferrari bruciava tantissimo. E mi spiego, negli anni 50, ancora anni 60, quando purtroppo nell'automobilismo le morti in pista erano quasi all'ordine del giorno, l'uomo di Maranello, sai benissimo di cosa parlo, purtroppo. Assolutamente, ma l'uomo di Maranello era stato nei fatti scomunicato dalla Chiesa Cattolica. C'era stato un intervento durissimo della rivista dei Gesuiti che aveva paragonato Ferrari a Saturno, il re della mitologia greca che divorava i suoi figli, e per Enzo era stata una sofferenza enorme. Potete immaginare cosa significò per lui nel 1988, quando in occasione di una visita pastorale in Emilia, Wojtyla chiese di poter visitare la Ferrari. E non solo, è l'unica circostanza della quale si ha memoria. Vedete, il Papa, quando girava tra la folla, aveva sempre quella vetturetta, la Papa Mobile, sì, eccetera. Arriva a Fiorano, c'era la Papa Mobile alla pista, al circuito, pronta, e c'erano decine di migliaia di persone accalcate lungo il tracciato, e il Papa polacco si girò verso il suo segretario, Monsignor Stanislao, e gli disse: ma non è possibile che in pista Fiorano io giri con la Papa Mobile, fatemi fare il giro con una Ferrari, no? E c'era solo una Ferrari. Chi gli do quella Ferrari? C'era solo una Ferrari con 2 litri di benzina appena in garage, era una Mondial, no? E si mise al volante Piero Ferrari, il figlio del Drake, che noi oggi salutiamo con particolare affetto perché in questa settimana compie 75 anni. E quella immagine del Papa su una Ferrari scoperta, guidata dal figlio del Drake, fece apparizione nel giro di poche ore nei telegiornali e il giorno dopo sui quotidiani di tutto il mondo. Una scena incredibile che venne appunto a mettere fine a una contrapposizione che non aveva senso, cioè quella tra la Chiesa e la passione per l'automobilismo, per le corse. Uno dei più grandi personaggi. Io so che il conduttore vorrebbe farci parlare di cose molto più serie. No, ma io no, niente. Però ricordiamo anche quando, come andò diversamente. Io sono interessato solo. Lo sai, no, ma mi, guarda, mi faccio bastare anche la Bundesliga, tanto che invidio, sì, in questo momento così, invidio però, Vettel più di Sainz. Perché Vettel... sì, però diciamo una cosa, Marino, che io e te siamo già molto preoccupati. Il 3 giugno si riapre il transito tra le regioni in Italia. E vi vengo a trovare, ragazzi. Ma tu sai invece quanti mariti sono atterriti all'idea che Genta potrà uscire dalla Lombardia? L'unico pensiero che ho è scendere in Emilia Romagna. No, io vorrei sapere se i romagnoli possono andare in Romagna e viceversa, è consentito. No, i romagnoli sì, io e te sì, Emilia Romagna sì, ma lui, questa è una minaccia totale, questo Genta, hai capito? No, senti, mi puoi dire, Carlo, perché sta evocazione che ha fatto Leo, anche se so che vorresti parlare di tante altre cose, che il popolo scalpita perché vuol sentire parlare di tante altre cose, ma fu ben diversa la vita che fece il grande, indimenticabile Sandro Pertini al grande vecchio Enzo Ferrari. Beh, meravigliosa quella. Meravigliosa. So che la racconteresti meglio tu, però è chiaro che erano di fronte i due grandi vecchi della storia d'Italia in quel momento. Allora, Ferrari era presente perché la salute glielo consentiva, al contrario di quello che fu costretto a fare col Papa, perché poi qualche mese dopo si salutò il grande vecchio, parlo di Enzo in questo caso. Però naturalmente fece saltare tutto il cerimoniale perché Pertini si era presentato a casa della Ferrari con una Maserati, perché i grandi vecchi sono sempre molto dispettosi, no? Non gli andò incontro, lo ricevette praticamente nel suo ufficio e quando qualcuno gli chiese il giorno dopo come aveva trovato Pertini, lui disse la celebre frase: il mio dottore mi ha sempre detto che a una certa età si chiudono delle arterie o nelle gambe o nel cervello, dovevate vedere Pertini come sgambettava. No, perché se l'era presa perché appunto il Presidente della Repubblica era arrivato all'ingresso della Ferrari con una Maserati e questo per Ferrari era, non lo so, cioè come dire a un interista vai a festeggiare il triplete della Juventus, capisci? Cioè, no, ma cosa tu venerdì festeggerai con uno juventino naturalmente. No, ma però voglio dirti che fu divertente perché appunto ci fu questo episodio e Ferrari non andò alla macchina e disse al suo segretario particolare Franco Gozzi, lo dico in inglese così capite tutti, dov'è te ad avere la portiera, se ci vai te aprire le porte della macchina, perché non tollerava l'idea lui Ferrari di doversi far vedere che apriva la portiera di una Maserati per accogliere il Presidente della Repubblica. Ma insomma era un'Italia meravigliosa. La domanda tendenziosa è: ma lo fece apposta di andare con la Maserati? Beh certo, ma certo, erano due bambini di 90 anni allora, erano i grandi vecchi di questo paese. Fra l'altro questa storia, questa cronaca, poi c'è anche la leggenda che, come sapete, Ferrari ha sempre detto, si è sempre vantato di non essere mai andato a Roma e men che meno si sarebbe andato come senatore a vita. D'altra parte Pertini si guardava bene dal nominarlo senatore a vita perché, ripeto, erano due grandi vecchi di quell'Italia che in quel momento aveva dei bellissimi punti di riferimento. Fra l'altro quando lui disse la famosa frase dovevate vedere come sgambettava, dell'antagonismo fra arterie del cervello e delle gambe, aggiunse: e a me fanno sempre male le gambe. Sì, ma aggiungiamo, scusa Marino, una cosa, perché per completezza, è vero che si facevano i dispetti, ma Sandro Pertini dal Quirinale nel 1979 è stato il primo Presidente della Repubblica a mandare un telegramma a Ferrari per una vittoria in un Gran Premio di Formula 1 di Villeneuve. Ah sì? Sì, e Ferrari questo lo ha scritto nella sua autobiografia dicendo: ho dovuto aspettare una vita per vedere riconosciuto dalle istituzioni il valore di quello che faccio in nome del mio paese. E fu Pertini a farlo, tutti i suoi predecessori per le vittorie precedenti della Ferrari, Le Mans, Formula 1, eccetera, o nelle Mille Miglia, non si erano mai fatti vivi. Questo per dire che appunto erano capricciosi, ma nel fondo poi come con io profondo rispetto. Abbiamo quasi 100 anni, ci facciamo i dispetti, no? Però in realtà ci vogliamo bene dell'anima, ecco, questo diciamolo pure. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi ricongiungiamo ovviamente la magica coppia, anche perché ci sono vari compleanni da ricordare, vari anniversari da ricordare, lo voglio fare con voi. Bartù, sei unico, meno male che ci siete ragazzi, Dio vi benedica. Tutti convocati. Il momento della tua scelta più importante, quando hai deciso di rimanere qua, ci credevi? Non si può. Ah, io, un attimo, io sapevo che sarebbe stato difficile vincere, però i presupposti erano quelli buoni. E adesso che abbiamo vinto è un coronamento al lavoro e a dei sacrifici notevoli, a dispetto di quelli che dicevano che per noi qua era tutto semplice, tutto bello e tutto facile. Fammi l'ultima dedica e poi ti lascio al giro. Ma io lo dedicherei ai sandoriani, presidente, giocatore, tifosi, allenatore, perché se lo meritano. Mi è piaciuto molto prima Pierluigi Pardo quando nel suo radio tweet iniziale ha ricordato oggi il compleanno del 29esimo compleanno dello scudetto della Sampdoria, una squadra a cui io personalmente, ma credo tutti trasversalmente, hanno voluto un sacco di bene, no Marino? Assolutamente sì, come hanno voluto tanto bene per la proprietà transitiva o viceversa quel grande presidente che è stato Mantovani. È stato forse l'ultimo grande miracolo del calcio italiano, l'ultimo miracolo familiare, romantico, provinciale, anche se Genova non è assolutamente una città provinciale, però fu il culmine anche di un grande sogno, perché ricorderete che nella seconda metà degli anni Ottanta ogni anno lo scudetto cambiava proprietario, perché si passò dalla Juventus al Napoli, all'Inter, al Napoli, alla Sampdoria. Erano tempi che abbiamo sempre detto che non si potranno mai riproporre. Io credo che chiaramente la sedimentazione anche economica di questi ultimi anni, e ne avete parlato prima parlando e facendo giustamente gli auguri ad Andrea Agnelli, rimarrà inalterata. Però è anche vero che forse questa pandemia anche nel calcio ha fatto ritrovare un po' di spazio per la creatività. E allora chissà se ci sarà ancora una Sampdoria, grande metafora del nostro amore per il calcio, nel calcio italiano e nella storia degli scudetti. Io credo che anche Leo Turrini abbia ammirato quella Sampdoria dall'alto del suo interismo. Sì, assolutamente, ha ragione Marino. Ci sono tanti ragionamenti da fare, perché, ma non solo in Italia, cioè in Germania vince sempre il Bayern, in Spagna sono solo due squadre, al massimo con l'inserimento sporadico dell'Atletico Madrid, in Francia col PSG non ne parliamo. Abbiamo tutti nostalgia di quel calcio, per stare alla nostra dimensione, nel quale c'erano, visto che anche recentemente è stato pure quell'anniversario lì, episodi fantastici come il Verona dell'85 o appunto il Napoli di Maradona o la Sampdoria di Vialli, Mancini, Cerezo. Io lo dico sempre, figuratevi poi occupandomi spesso di Formula 1, cioè il sale dello sport, della competizione, anche al massimo livello di business, è l'equilibrio. Se viene meno quello, gente bravissimo, Pardo è bravissimo. Io e Bartoletti siamo due rincoglioniti, ma ce la caviamo ancora abbastanza bene. Però poi tutti gli anni ci dobbiamo raccontare che hanno vinto tra la Mercedes, la Juventus e Andrea Agnelli, che per l'amor di Dio tanto di cappello, ma uno alla fine dici che due maroni. Ricordo di Raimondo Vianello, Sandra Mondaini, che barba, che noia, che noia, che barba, no, vogliamo dire, e diciamo. Allora ragazzi, facciamo insieme gli auguri a uno dei protagonisti di quella Sampdoria, cioè Marco Lanna. Ciao Marco. Ciao, ciao a tutti. Ciao, hai sentito ciao. Le rievocazioni di Marino Bartoletti e Leo Turrini? Insomma, come passi il compleanno? Ci pensi al fatto che questo è un compleanno? Vogliamo ricordare che un genovese che vince a Genova, sì, tra l'altro. Sì, effettivamente diciamo che essere profeta in patria non è facile. Poi a Sampdoria ho avuto la fortuna di crescere in un gruppo, diciamo, fortunato, proprio perché abbiamo, diciamo, mi ritengo veramente baciato dalla dea bendata, perché sono un genovese cresciuto nella Sampdoria e diciamo che grazie a Mantovani, grazie anche a Bosco, perché io l'anno che dovevo passare dalla primavera alla prima squadra dovevo andare al Foggia di Zeman, che era in P1, e Bosco volle invece che rimanesse aggregato alla prima squadra, quindi ho, diciamo, la grande fiducia che mi ha dato, poi diciamo che mi è servita appunto per poi riuscire a vincere Scudetto, insomma avere tantissime soddisfazioni con quella squadra. Marino ha un rapporto privilegiato con Roberto Mancini. Certo che questa era nazionale di sembra quasi figlia di quella Sampdoria, a guardare quelli che ci lavorano, no? Con ruoli diversi, Mancini, ovviamente Vialli, ma anche Attilio Lombardo, anche questo è abbastanza evocativo, no Marco? Beh, sai, quello era un gruppo che cioè, è un gruppo, perché obiettivamente tutt'oggi comunque quando adesso dovevamo incontrarci a marzo, ma poi non è stato possibile per diciamo l'evidenza, però è un gruppo che è sempre rimasto molto legato, obiettivamente diciamo che siamo come fratelli, tutti diciamo sparsi un po' per Italia, Europa, però veramente cementati da emozioni grandissime vissute assieme, ma anche poi da una stima reciproca, un affetto, diciamo che ci sono tanti valori che ci hanno che hanno accomunato, e che questo ovviamente bisogna dire che grazie al presidente Mantovani, che all'epoca diciamo che sceglieva prima gli uomini dei giocatori, era forse stato uno dei, forse perché all'epoca si poteva, ma sceglieva veramente, prima voleva conoscere il giocatore, più l'uomo che il giocatore lo, diciamo che lo vedeva, ma prima di far venire la Sampdoria voleva che fosse diciamo una persona integrabile in un gruppo che stava crescendo, no? Per prima Mantovani è partito da lontano per arrivare, sì, poi sì, è chiaro, però era una super squadra, e questo va detto, cioè non era sia il Verona che la Sampdoria, cioè erano squadre pazzesche, comunque dal punto di vista dei contenuti. Non è un caso, Marino, che queste, in quei gruppi le feste continuino a una trentina d'anni di distanza, capita al Verona, capita alla Samp. Io sono rimasto fermo alla festa dove con le parrucche bionde cantavano The Final Countdown dell'Urio, sì. Cosa che rifaccio sempre a Mancini, con cui potrei ricantarlo tranquillamente, ma ha ragione Marco, ha ragionissima quando dice che Mantovani sceglieva gli uomini, e aggiungo sceglieva i giovani uomini, perché molti poi li faceva diventare uomini lui. Allora tu hai ricordato il mio rapporto che ho con Roberto Mancini. Marco, io l'ho conosciuto prima ancora di te, quando ero un ragazzino immagino. Che stava cercando di individuare a suon di sacrifici, perché ne ha fatti tanti questo ragazzo, quella che fosse la sua strada. Però c'è una cosa che gli dico sempre, che mi devi confermare anche tu, cioè lui tutto nella vita sembrava potesse fare, fuorché il commissario tecnico nazionale quando giocava. Ma guarda, diciamo che io quando ho finito con il mio contratto in Spagna, diciamo, ero libero e sono venuto in Italia, e Mancini all'epoca era alla Fiorentina, e mi chiamò e mi disse: Marco, vieni qua a allenarti con noi, che adesso era un momento in cui era sull'orlo del fallimento, quindi diciamo appena si sistemano le cose ti faccio il contratto, tanto vediamo come stai, insomma tutte le prove, che... e mi allenai a Firenze 3 mesi. Ti dico la verità, anch'io pensavo che Roberto sarà allenatore, ma non lo so, sembra un grande solista. Sì, poi comunque era un ragazzo chiuso, un ragazzo che non so quanto, più che altro a livello diplomatico, non so quanto potesse diciamo reggere poi uno spogliatoio. Invece ti dico la verità, ho trovato veramente una una trasformazione in lui. Io era chiaramente un po' di anni che poi, da quando sono andato prima a Roma, poi in Spagna, non avevo contatto diretto, però l'ho trovato veramente una persona che con i giovani gli aiutava, gli spiegava i trucchi del mestiere, che sia difensori o attaccanti. Aveva veramente fatto un cambiamento radicale nel suo modo di essere, e in più diciamo che aveva un'esperienza e delle capacità di insegnamento altissime, quindi no, effettivamente anch'io inizialmente avevo dei dubbi, ma dopo quei 3 mesi ho cambiato idea, perché veramente ha fatto quello step, un allenatore molto bravo, ha fatto quello step molto difficile. Sono due mancini quello con la parrucca bionda e quello che adesso traghetterà la nazionale verso gli europei con grandi prospettive. Grazie Marco. Grazie a voi. Auguri ancora. Non mi resta che fare gli auguri a Leo Turrini per venerdì, che Leo festeggerà il triplete con uno juventino, io immagino, perché è anche il compleanno della Champions della Juve, quella di Roma, 24 anni. Quindi... Sì, ci ritroveremo tutti insieme come le star a bere del whisky, Ratsbar. Io volevo salutarvi, però visto che giustamente abbiamo evocato anniversari, con un'altra ricorrenza. Domani è un anno da quando ci ha lasciato Niki Lauda. È stato un personaggio meraviglioso, uno che ha segnato un'epoca, forse la Ferrari più amata in termini di popolarità collettiva è stata quella che aveva Niki, Regazzoni al volante, poi tutta la vicenda, il duello con Hunt, è finito anche Hollywood il film, e poi purtroppo per noi ferraristi è stato anche il grande artefice della creazione dello squadrone Mercedes. Ma io non dimentico che un anno fa Lauda per l'ultimo viaggio si è fatto vestire dalla famiglia con la tuta rossa della Ferrari, e mi faceva piacere ricordarlo oggi insieme a te e Marino. Io non so mai come ringraziarvi abbastanza, Leo Turrini e Marino Bartoletti, grazie anche a Filippo Oreggi in regia, Miriam Lucchetti con Edoardo Lavezzari, e tutti convocati domani alle 2. Ciao. Minchia, è stato una montagna russa. Ci vediamo domani. Enjoy. Saluti.